poi la frase che usano sempre per ogni cosa un po' diversa dalle fesserie, dice non abbiamo mai visto niente del genere. Ogni volta la frase predefinita è quella, come Minisetta aveva appunto il braccio di mamma, le era venuto il braccio che sembrava un pallone. Anche lì, non abbiamo mai visto niente del genere. Poi ho detto, ma almeno hanno analizzato il liquido, il siero, cioè con una siringa aspirata a vedere se c'era florabatteri. Nulla, già, nulla. Gente improvvisata proprio scappata di casa, e di testa anche, scappati di testa. Allora, quelli sono di qui, cosa? Ma che odore era questo? Perché non avevo visto queste cose. Io non ho visto queste cose. Ma capire se c'era un veleno, se era, che ne so, un ragno violino, qualsiasi cosa. Non hanno manco aspirato il siero, non... cosa gli hanno dato? Una pomatina, un prego, che cavolo gli hanno dato? Vabbè, infatti alla fine è diagnosi incerta, non si capì, non c'era diagnosi. È entrata con questa cosa, è andata via con. Poi si è sgonfiata di suo. Vabbè, poi non ci sono medici, dicono che c'è carenza di tutto, di medici, di infermieri. Poi non so se sia una cosa fatta apposta, cioè ti fanno apparire come essere, come che fossimo sempre in una situazione di perenne emergenza. Da quando c'è stato il Covid, non ci sono medici, non ci sono infermieri, non c'è posto, non c'è questo, non c'è quell'altro. Allora, Marco, adesso te lo spiego, io all'ospedale lo sai che ci sono stato parecchie volte. C'è una scala che loro rispettano, prima i bambini, poi le persone adulte, poi quelle più grandi, e gli anziani sono gli ultimi, che loro vedono, perché non gliene frega un cavolo, ho detto chiaramente. Vabbè, poi lì se succede una negligenza devi sempre andare di denunce, di cose, devi stare anni in causa magari, per carità, no? Vabbè, chi altri c'era rimasto qua? Manuele, Antonio, Santi, via. Ma c'è un problema, c'è anche un fisico. Manuele, sì, c'è la varia del coso, ma noi devo andare alla borsa per parlare la cecchia. Quando stiamo dicendo, mamma, è brutto da dirci, però io una volta ho portato un anziano che aveva la febbre a 40 ed era 3 giorni così, l'abbiamo portato a pronto soccorso e il dottore ha detto queste frasi, ma perché non fanno come in certi paesi che queste persone qua gli fanno un'iniezione e gli fanno curi, così almeno non stanno a rompere le scatole ogni minuto qua a pronto soccorso, c'era il figlio curi. Oh, detto da un medico, c'è una cosa di una gravità. Questa gente che ha fatto il giuramento, come si chiama, di Bodale, di Ippocrate o chi era? Cioè non l'ha detto nemmeno un balordo di passaggio, l'ha detto un medico. Vabbè, come gli spartani, capito, che i deboli e i cosi li lasciavano morire. E con Sisemo. Come fare in certi paesi, devi fare un'iniezione letale e quindi almeno non rompono più le scatole, non diventa pronto soccorso per ogni cosa. Quando sono anziani non servono più a nulla, cosa si tengono a fare le persone anziane. E il figlio è stato detto, diventerai anche più guarda, c'è una bella di balocola, io non troppo culo ricordo, come la pensa. Ma pensano così, purtroppo quando è un anziano, ci finiremo anche noi tra gli anziani e saremo trattati in questa maniera. Quando tu vai, chiamate il medico di famiglia, andate nelle, come si dice, dal medico, quello che fa la notte, cioè quelli non sanno nulla, non comprendono nulla che si dice. Secondo Carlo di coda, chi è Carlo? Forse c'è una comitiva, sono in macchina con la radio. E ci sono gli americani, noi non siamo americani, siamo sardi. E il palo sopra, così imparano tutti e due. Prima ce le tirano, eh. Ah, bene, va bene, va bene, però passo, passo, ok, però passo. Tra di loro possono parlare. Ma se hanno, metti Gianni che abbiano il subtono, ci sono degli apparati che hanno anche il subtono, come il VHF, no? Metti il subtono e senti esclusivamente l'interlocutore, a meno che non intervenga un segnale più alto che copra. Quindi non lo so, ma quindi c'è il subtono, non è ancora tutti. E allora io credo dunque, il piccolino ce l'ha, uno, due, tre apparati, credo con sicurezza tre apparati dei miei hanno, volendo il subtono, e funziona naturalmente però, ho detto una stronzata io, scusate, funziona solo in FM, non so il perché, ma sono fatti così, in FM funziona il subtono, allora puoi usufruire di questa opzione, capo. Strada. Ma sono lontani qui, dove siete? Non è difficile, tutto sta nel bloccare la prima macchina, poi il resto si accoda dietro. E bisogna vedere se quelli che si accodano sono contenti. Tanto anche mi è capitato altre volte, sì, mi è capitato un'altra volta che c'era la coda uguale quasi dentro. Chiudo in Italia questo, Emi. Vai. Oh Antone, poco fa, se no scusate, adesso non vorrei solo ondulare, ma forse non si sono accorti che c'era gente sul canale. Non voglio apriamo Marco. Che cosa avete dovuto fare? No. Sono per i fatti loro, sono a 50 metri di valore, quindi allora non c'è nessun mancamento. Dovrebbe essere giù in Sardegna, e a quanto ho capito io è giù in Sardegna, quindi sono uno attaccato all'altro. Non fa niente, a fotti di. Non è importante. Allora ripeto, le macchine. No, è strano che non si siano accorti anche che c'erano altri segnali. Magari non ci sentono, hanno capito. Allora mi ci sento loro, quindi figurati. Dunque sia, che sembra in occhio. Come esce il forte questo microfono, ma al massimo sia già. Al massimo di che cosa? Di quanto? No, di volume del microfono. No, assolutamente no, solo sulla C, normale. E quindi. Dunque perché? Con il dato forte sta uscendo con l'MVP5. Avete parlato in due alla fine. Ci passano male, Carlo. No, stavo dicendo, se sono così tanto forte di audio con il MVP5 letto. Sì, ma ci passa sopra, quella sopra non è un problema. Antone, ma prima ho sentito che volevi fare tipo il bagno nella birra, e cos'è, mancata l'acqua, hai detto? E ieri notte è mancata qua invece, e non me l'aspettavo, eravamo anche senza il bidone dell'acqua pieno, capito? Un'altra volta, io lo so. Ehi, te sto dicendo, l'acqua marrò alle 2:30 di fatto, perché io vado meglio così. Adesso mancata, adesso stasera mi lavo i coglioni che ho qualcosa, te dico io, con la birra me ne lavo i coglioni, se non uso la pavita, e dovevo fare. Ah, quando c'è nulla, niente, tu immaginati, a riempire se fatto da 15.000 litri ci vogliono minimo 3 ore. Perché c'è ecco. L'uscita di Antonello, no. Si lava i zebedei nella birra, però birra limone possibilmente, perché il limone sgrassa. Allora, registrato il break, mi pare sia Carlo, avanti. Buonasera Marco e Antonello, poi non so se c'è qualcun altro, io sono a Fredanieda in macchina, sto andando a lavoro. Ciao Carlo, ci sei dimenticato di me. Ciao Gianni, ti ho sentito adesso, ho attaccato adesso. Che appagato, ma lavoro serato, io ce l'ho ieri notte. Sono stato sino a tardi perché dovevo arrivare alle 10:30 alla Bologna e c'era ritardo. Io devo essere lì alle 19:30 e poi finisco alle 2:30 perché c'è un volo privato che deve arrivare, capito? Quindi ci sono 15 passeggeri, scaricano e ricaricano altri 80, è un charter, capito, privato, e quindi mi hanno fatto il turno tardi. Vabbè, cosa si vuole fare? Purtroppo così, quando sei turista è così. Va bene, Antonello, ma senza acqua sei? O sbaglio, ho capito male. Senza acqua, non c'è l'acqua qua. Nulla. se non arrivo l'acqua dopo bisogna che vado immediatamente all'ospedale a prendermi l'acqua, se no stanotte io mi bevo le balle e mi bevo stanotte. Due sono le cose. E se non arrivo domani mi lavo le balle col coso, cazzo, con l'acqua vite o quello che c'è. Mamma mia. Secondo te, cazzo, non è mai mancata l'acqua qua a me, è solo più di 20 anni che non manca l'acqua. Cosa devo dire, cazzo? Tutto il cazzo mi manca l'acqua. Alle 2 apro il rubinetto, sentivo, ah, ma sta arrivando l'acqua. Marrone me, dico, marrone scuro, tipo ruggine, e figurati tu a un certo punto. Poi, dopodiché, è mancato di nuovo dopo un'ora e mezza, alle 4:30, quindi ancora non è arrivato niente. Non è quello il problema, è che stai parlando in un modo che magari E cosa ne vuoi secondo te? Ascolta, come faccio a lavarmi? Cosa uso? L'alcol? Due sono le cose, mi vado al bar, mi prendo come si chiama e mi lavo i gioielli con, con quella roba lì a disinfettarmi. Salviette, vabbè, da bere già ti prendi la birra e per le parti intime prendi le salviette, quelle umidificate, quelle che usi per i bambini. Vabbè, quello già lo so anch'io, ma il problema è che speriamo che Giovanna si alzi veloce, così vado e mi faccio la spesa dello spin giù a Pedalietta, che ho visto alla Crai c'è il pesce a 4,70 euro, le sabine al chilo e anche i sgombri, quello che c'è il 4 novembre. L'ho preso al volo e l'ho messo in freezer, un chilo. Comunque confermo, l'avevo letto sulla Nuova ieri sera, Sassari, guasto ai potabilizzatori dell'acqua, disservizi diffusi, e confermo che stamattina quando è tornata l'acqua era proprio di un marrone brutto, non ti dico cosa sembrava, però già hai capito. Carlo, riprendi. Per fortuna noi abbiamo il posto nel condominio, infatti proprio ieri con un altro che abita nel mio palazzo stavamo cercando di prendere la lettura del contattore, perché Abanoa ci ha mandato una lettera dicendo che non sono potuti riuscire a prendere la lettura perché praticamente lo sportello non apre perché davanti c'è il tubo Innocenti dell'impalcatura, capito? Invece noi l'abbiamo aperto poco a poco, però il contattore, il vetro si vede e dentro è tutto acqua marrone e non si legge niente, capito? Ma noi siamo anni che non facciamo zero consumo di acqua di Abanoa perché abbiamo il pozzo e quindi utilizziamo quella, e al pozzo, diciamo, ai serbatoi di quella acqua di Abanoa non ne arriva perché deve essere ostruito il tubo che va dalla strada al contattore, hai capito? Tutto lì. Come vi sto arrivando, Gianni, mi sono preso l'antenna come la sua. Dove? Santiago Lopera di Ucciso. Dove sei arrivato? Guarda, sono, diciamo, ho passato con Forama, sono sulla 4 corsia, appena iniziato, insomma, la 291. 9:15 adesso, sì. Arrivi benissimo, quella stai usando. A te, Marco, incontinate in due. Allora Carlo, eri 8:30, sei sceso adesso in quest'ultimo passaggio da 8:30 a 7, però è molto variabile, ti ascolto bene. Ah, quindi hai preso la Sunker, quella lì? Da Santiago Lopez, Santiago Lopez, quasi. Gianni è bello aperto lì. Antonio, da te quanto arriva? È sceso a 8 adesso, però la radio è quasi non lo sento più, non sento una ombra. Adesso sì, 9. Santiago 7 adesso. Segnato di quando quello già con una base magnetica bella. C'è anche la magnetica, vabbè, ma ce l'ho pensata in cucina. C'è in cucina la Giovanna è installata. Tanto il 2001, ma lì si è sbagliato a usare, buttata. Se ne sta vivendo con l'antenna. Oh, yeah. Vabbè, Qui pigliate la Marco, controllo adesso se si è sistemato l'uovo l'acqua, se no. Prima del 7 e mezzo mi tocca andare per forza dello USP a prendermi l'acqua per bere, se no stavolta bevo piscio, bevo. Come sei colorito, Antonè? È lessico che a te a te. Marco, chiedilo a lui come ha fatto ordinarla con quella ordinata, che così ce l'ha avuto. Aspetta, sta parlando? No. Allora dicevo, per esempio qua su Amazon.it, quindi Amazon italiana, c'è 45,75 euro, antenna e base magnetica, più 10 euro di spedizione, quindi 45, 55, 56 euro massimo, dai. Però già, cioè io ho già due basi magnetiche, forse è stata l'antenna senza la base, forse ci avrei pensato, ma alla fine per un uso così raro, saltuario, che se ne fa, mi tengo quelle che ho già. Mi sarebbe interessato lo stile e basta. Eia. E comunque è buono che si trovi anche da Amazon.it, però naturalmente il venditore, cioè è sul sito di Amazon, ma ti arriva da Le Mona Electronics, secondo me è un sito o russo o tedesco. Allora è troppo quello che devi sentire, ho pagato 35 euro che pare, vero Carlo? Sì, praticamente io l'ho presa, l'ho fatta qua. Ma la mia l'avevi pagata meno, vero? Esatto, sì, con spese di spedizione, infatti mi sembra aumentata troppo, ma lo stesso sito ne prende. E tu aumentando, capito, tu l'hai già un anno fa, capito, qui in un anno tanto di roba, sono aumentate le cose. Gappa, dove sei adesso, Gappa? Adesso sono più a Ferma, è praticamente a rettilineo che ti pone al posto un bivio a sentiera, la Rivara. Sì, da 7 a 8. Stai usando 5 watt? Adesso sono una parte del costruttore. Carlo, 7 e mezzo da me. 7 e 8. Allora va bene, nel frattempo Antonello torna. Allora, su eBay trovo, c'è un annuncio, 48 euro e 24 centesimi, spedizione gratuita, è proprio quella, 48 euro e 24, spedizione sì, da, vediamo da dov'è, vabbè lo vedo con calma, da, volendo sì, 48 euro ce l'hai, ecco, 48 spiccioli, però alla fine, senza contare già quella trentenne piccola che c'ho, c'è quella tipo che è la copia di quella dei vigili urbani, no? Col dischetto metallico, elichetta, come dire, la bobinetta vista e lo stilo. Più quell'altra, quella micro tipo autoradio da mettere al posto dell'antenna autoradio, che sembra un'antenna autoradio. Ho capito, se si vuole vedere. Io quella che usavo io con la base magnetica l'ho utilizzata. Adesso mi rimane quella nuova mai usata, che la sto perdendo 60 euro perché non l'ho mai toccata. Cioè ancora c'ha i cavi legati, tutto quanto, come l'ho comprata. Qual è la mini turbo, hai detto? No, la turbo 2001, quella che è 180 centimetri. Quella come peso impegnativa, cavolo, quella è bella, però anch'io ci avevo pensato tante volte, ma cioè, alla fine già, cioè, quella va bene se usi anche watt su watt, se non è troppo rigida anche. È una bella che devi usare, la fermo la puoi usare a prezzo 10, ma io la uso, con quella prenda lì, non so come ti ho parlato con la basata, arrivo a volume 9.15, c'era la basata da lì, con l'inerzio a 104, in mappa. Senti la spagnola, senti. L'ho sentita, chiesa mia madre, ma scusi all'isola della Sardegna, adelante. Avevate mia hermana, se scusi la Sardegna. Che vocina voi? Sei un po' in saturazione già. Aspetta, che devo comprare una cosa. Carlo, attenzione Carlo. E magari quando può risponde, là, prende il mic. Poi io ho una paura già, detto tra noi a guidare, cioè devi avere mille occhi, perché se magari dallo specchietto non te ne accorgi e c'è la vigile urbana, quello che ti vede che ti porti alla bocca il mic, guai. Può essere anche una moto che ti si affianca a quelle, sai, tipo borghese. Non lo so, la strada è col tele laser che ingrandisce l'immagine e ti vedono col mic davanti alla bocca, guai. A me non mi vedranno mai col mic davanti alla bocca, perché lo tengo sulla gamba e mi sentono benissimo col microfono sulla gamba, e non è manco amplificato il mio, solo che l'apparecchio c'ha il top down e praticamente la radio la amplifica anche se non vuole il microfono. E la tengo sulla gamba e mi sento benissimo. Sì, l'altro giorno in realtà anch'io l'ho tenuto sulla gamba, con quel baracchinetto, quello con i sultoni lì, magari parlando un po' più a voce alta, e mi sentivano lo stesso. L'amplificato è ottimale, l'amplificato su questi apparati è ottimale. Certo, ti tira dentro un po' di rumore della macchina, il vento, il motore, quello che è. Ah no, se di quelli che c'ha anche il vento, non ci fa manco nulla. Aspetta che vediamo se c'è il capo. Carlo! A meno che non abbia trovato qualche controllo. Mi, ieri notte per esempio c'era... stanno facendo dei controlli, mi, ne stavate parlando anche prima. Tu fai la via del vialetto, no? Poi se vai a Pradanier, da lì sulla destra c'è la coapla, lì dove c'è l'entrata della coapla stradale, e lì come svolti che non li vedi dietro la curva, ti alzano la paletta, lì se sei in difetto guai, se sei senza cinture o con casini comunque tipo senza assicurazioni, così, lì te li trovi davanti. Io ho trovato di no, sono tornato da zero, c'era due pattuglie di... E poi era ovviamente la stradale, quella che ho visto io, è quella che non perdona, e comincia a vedere le gomme, se battistrada, se sono lisce, qualche magagna te la trovano mi. E anche io, la stradale, che poi già è tutto a coso, io in realtà c'ho tutto in regola, c'ho tutto, metto persino la cintura, ma per evitare le multe, perché città sia passo d'uomo, e comunque sia, come io dico agli altri, anch'io dovrei rispettare il codice con la storia del microfono. Oggi per esempio in una rotatoria vedevo questo che era in prossimità del rotatorio fermo e non faceva nulla, io ero morto. È vero, dal vetro, che praticamente stava chattando col cellulare, no, proprio chattando, scrivendo col cellulare, e fermo in mezzo, non dico in mezzo, ma prima della rotatoria, e l'ho suonato appena. Ti volevo dire, o chatti o guidi. Ma secondo me i trucchi non ci conviene, secondo me i trucchi con i trucchi, con le manità, ma c'è aperto, non spendo niente. Stavo dicendo che praticamente io l'ho trovato ieri notte, tu quando l'hai trovato in pista della strada. Allora, ieri notte erano davanti alla coapla, quindi se vai dalla via del vialetto, se vai verso Prenadie, da lì ti ritrovi, erano le 10 e mezza, 11, non saprei, una cosa del genere, fai le 10, 10 e mezza, là. Anche io l'ho trovato lì, l'ho trovato in mano verso Prenadie, perché sono andato a prendere mia figlia, che era l'aeroporto, sono andato in ritardo, quindi abbiamo dovuto aspettare mezz'ora in più. Provo a vedere se Carlo ti sente, vedi un po'. Carlo, sì. Ma non è che è già arrivato, no? No, stiamo a parlare. Carlo, arrivo a casa, sentiamo per te. E questi segnali di propagazione li senti? Oh, io ho il QRM 3, 4, più ci sono anche portanti multe di propagazione, spagnoli, inglesi che fanno i gargarismi e quant'altro, dai. Ciao Marconi. Ciao, saluto a chi c'è il ruolo. Poi tu. E certo. Di questo è che non si capisce nulla. Prego. Ecco. Non ho capito neanche che sei tutto questo eco. Non si comprende nulla. Ciao Tori, eco più un po' di saturazione anche, un bel di saturazione. Chi era con l'eco? Ciao Tori. Lo più room. Tutto ma a me è disastrato veramente, non si capisce nulla. Ciao Gianni, mettiti normale che sei meglio. Non me ne raccordo, non me ne dico nulla a me, non me ne raccordo, sicuramente è polverato e ho toccato senza accorgere. Ecco. Un po' di tempo che non ti sento frequenza, come mai? Io entro, poi non c'è nessuno e cosa faccio? Cosa faccio? Parlo col muro. Se chiamo, magari allora che entro io non c'è nessuno. Verso le 6:30 io accendo sempre, ma non risponde nessuno, allora me ne va. Se c'è gente rimango. L'altro giorno c'era Antonio, oggi c'era Antonio, ci sono rimasto. E da poco aveva parlato con Marcolino che era in macchina, poi c'era Tadino, c'è la gente, dai. Ma magari non coincidono gli orari, tu. Io alle 6:30 accendo, se vedo che non c'è nessuno me ne vado. E me ne vado a cantare, lo sai che io ho altri hobby anche, quindi. Io ho l'hobby delle donne invece. Ottimo. Più che di lì, cavolo, lo faccio, lo io qua a casa. Sì, vabbè. Quello non è un hobby, no? Cosa naturale. Naturale no, insomma, a me non mi viene mai mancato, a voi. No, già, certi già lo fanno per hobby, c'hanno tipo l'album delle figurine con le conquiste. Ti ricordi il film Maschi contro Femmine? Che c'era quell'attore, come si chiama, quello che chiari, che aveva i tanga, gli slip di ogni tipa, di ogni paese del mondo, che faceva la collezione di trofei. Sì, vabbè. Ma non c'è problema. Comunque io ne ho tre di femmine per me. Ma a rotazione, come vai? Giorni pari, giorni dispari? No, nell'ora. Siamo tutti che ne ho uno la mattina, che sarebbe il martedì. Poi giovedì c'ho Monica. E poi c'ho venerdì un'altra che non posso fare nome. Ci ho dettato. Uia, devi mangiare un po' di uova sbattute, frollate, è debilitante come attività. Certo, ieri le ho fatto 6 uova, mi sono fatto. Ebbene Antonio, ma eri già andato a comprare la roba? No, ho chiamato Giovanna adesso e neanche le acqua, quindi andiamo al supermercato, ci prendiamo 2-3 casse di acqua. E solo stavolta siamo fregati tutti e due, capito? Se lo guarda cosa faccio, mi faccio una carità. Il serbatoio da 15.000 litri è vuoto, quindi evidentemente è strano la cosa, perché non lo so, a meno che non abbiano eliminato il bypass del serbatoio da 15.000 litri e hanno fatto direttamente il collegamento diretto dalla da Banoa, perché adesso ogni mese mi stavo chiedendo capito quanto ha col consumo da contattore, quindi senz'altro è quello. Ma non è che mancava da più tempo e avete consumato senza saperlo tutto il serbatoio? Non lo so questo, io so che mi ricordo che c'è il serbatoio da 15.000 litri, più ci sono 3 motori grossi per pompare l'acqua in tutte e 3 le palazzine, il discorso è quello lì. E l'hanno messo a posto, l'anno scorso l'hanno messo a posto, adesso stasera quando è mancata l'acqua, poi è arrivata l'acqua, cattura dell'acqua, marrone, marrone scuro mi. Sì, te l'ho detto anche prima, sembrava sciolta, sembrava. E siccome l'acqua non è potabile, quella di Sassari, quindi a un certo punto, va bene, solamente per andare a cagare, per altre cose, ma manco per cucinare, il discorso è quello. Meno male io ho il potenziatore dentro casa, e ve lo sto pagando fino al 2027, 6.000 euro ho pagato, ci usciva la macchina, quella 4 ruote per i cose, per i vecchietti ci usciva la vetta, guarda. Ho fatto male a occuparmi quella, posso avere il potenziatore, ho fatto quello sbaglio, forse per l'acqua, avrei fatto prima andare con i bidoni, andare verso Usi, devo riempire i bidoni, 10, da 10 a 20, allora avevo avuto l'acqua portabile. Hai innescato nell'ultimo passaggio, eh? Adesso va bene, sì. No, allora, come fai le pause? Nel parlato sente come un fischio, o ti stai ascoltando o è un innesco? No, non mi sto ascoltando, la verità, adesso mi sono accorto, c'è il fischio, aspetta un attimo. Dallo smetto, adesso va meglio. Male, male. E adesso e adesso meno, cioè no, adesso è sparito, ma è più cupa, è rimbombante un po'. Cosa stai toccando? Il tono? Il tono è un 25 più alto, adesso sembra il microfono che muto sempre. Ma l'innesco cos'è, un rientro di ADF o quant'altro? Non lo so, non la prima vera che sia il Nike. Aspetta. Adesso 3, 4, 5, 6, guarda un po'. No, allora niente innesco, dai, certo è un po' più rimbombante la radio. Comunque mi sta, allora io stacco un po', devo far roba, se no qua, cavolo. E riprendi Gianni, riprendi Torino. Ecco, io sto cercando su internet un frequenzimetro, veramente 7. Ma non riesco a trovare quello che voglio io. Un frequenzimetro, ma di quelli tipo lo ZG che mettevi al PL dell'antetra, dalla chinantenna, o di quelli dedicati, però che vanno bene sui 3009 solo, che c'hai una spina particolare, a 6 poli. No, no, quello è 3PL, trasuscita, della ZG. Che cavolo, non so nemmeno se li producano più, quel modello lì, ma lo ricordo, forse Antonello ce l'aveva mille anni fa, forse, Antonello, lo ricordi? Mi pare si chiamasse FC50, una cosa del genere. Già me lo ricordo quella cosa, la voglia. Ora ci sono due apparecchi in vendita che sono, che costano una cazzata. E oltre che dice che frequenzimetro, c'è un coso, c'è un Galaxy Pluto, c'è con frequenzimetro, ti prendi qui, ti prendi quello, ti prendi. Vai su Facebook, boh. Te lo prendi e te lo fai arrivare, non ti costa niente, costa una cazzata costa. Ma a me tutto non piace, se la stazione è fissa sì, a occhi chiusi non me la punti nulla, capito? Ma mi davo brutto, mi dà frequenzimetro a parte, lo metto sul mio, che ha stessi canali, è brutto, soltanto non ha frequenzimetro. Ma via, ecco, costa, mi sembra, ne voglio, mi sembra, se non mi ricordo male, 90 euro ne voglio, di quell'apparecchio. Cazzo, vai su Facebook, e guarda, cazzo, e te lo prendi, prima che se lo prendi a qualcun altro, 90 euro l'apparecchio ne vuoi. Adesso non mi ricordo io non so cosa dirti, cazzo, a un certo punto. Ma se a me non mi piace, a chi dobbiamo appunto, anche se non è 50 euro che ti giro, non lo voglio, ce l'ho già, non me la punti nulla, c'ho il mio che c'ha se scrive brutto, cosa me ne posso, Antonè, quindi mi prendo un frequenzimetro e lo attacco al mio. C'è una persona, CB, che l'ho telefonato, c'ha un paracchino con frequenzimetro che l'ho applicato e ha detto che lui vuole 100 euro. Frequenzimetro lo dai c'è per il baracchino, no? A mettere solo frequenzimetro, allora, forata canale, c'è me ne posso, ma non mi dico. Non lo so, io, tu sei tutto strano, la verità, io non lo so cosa dire. Non lo so, quindi tu cosa vuoi fare? Se avevo avuto quei soldi io a spaccare così, mi sarei comprato quell'apparato e mi sembra c'era un'altra cosa, adesso non mi ricordo. Vabbè. Pazienza. Adesso veramente si è applicato la questione di casa mia, non gli apparati, la verità. Se no avrei venduto le... come si chiama il gift, avevo vinto il 140.000, avevo vinto il 270 che ha regalato col microfono MD5, figurati tu. compresa la tavola qua adesso, capito? Simulatore, io non ho capito se tu sei una persona strana. Oh, uno non si può comprare che ciò che vuoi, ma poi mi devo pigliare un lutto, ma cioè, non ci capiamo, A me non me la butti nuda del tutto, ce l'ho uguale, capito? Senza frequenzimetro, stessi canali. Cosa me ne posso di un brutto vicino al mio? Nuda, capito? Stazione fissa, ok. Anche 500 euro lo pago, non me la butti nuda. Però quello che voglio io, punto. Siccome ancora non l'ho trovato, voglio un certo frequenzimetro. Ok, ma faccio arrivare il punto, sono già arrivato su internet. Beh, avanti, Marco lì. Ma non c'è andata a fiera a comprarla. No, l'ho salvata perché ho avuto dei lavori da fare, quindi ho incassato tre soldi, quindi nulla la faccia. Ho preso tutto, e non sono andato. Ah, io pensavo che fossi andato, ti dicevo che c'è un parato. No, negativo, no, non ce l'ho fare, che c'ho molti canali, ma non me l'ha tutti nulla. Se sono strano, se dimmi tu, allora uno si può comprare che c'è un lutto, non c'ho io. E ha detto, cosa anche in corso, 90 euro, chissà cosa va raggiungere, c'è mai un baracchino, 90 euro, un crack si frutto. E vuol dire, è stato toccato, è stato toccato, poi spedire soldi così a una persona che non conosci. No, meglio niente. Pia, tu Saturnecco, cosa vuoi dire? C'era un sacco di Saturnecco, l'hai avuto e te lo sei venduto. E poi hai avuto quell'altro e te lo sei venduto. Vedi, dovevi che... Non lo so, io non ti capisco, c'avevi gli apparecchi belli, cara, come si deve te li hai venduti. E poi di nuovo li compri, il discorso è quello, aspetta che mi sta chiamando Giovanna ad andare a farmi la spesa, ci stiamo dopo. Ok. Cioè, ma un uomo non può farci andare via, sia compro, vendo, compro io. L'economia la faccio andare avanti, se non la tengo bloccata così. Avanti, Marcolino. Stavo guardando su internet, purtroppo quel frequenzimetro ZG credo che nuovo non ci sia. E qualcuno ce l'aveva usato 80 euro, però vedo non disponibile. Praticamente sono quei negozi di elettronica che vendono anche l'usato. E poi era, sai, di quelli a LED rossi, non un po' retro, e credo che non ci sia più nuovo. Però mamma mia, io quando sento ZG, guarda, io tante cose ZG avevo preso in tanti anni, però tutta roba che dura per dare una tela a Santo Stefano, strumenti imprecisi, accordatorini che si bruciava la parte della sezione accordante, con pochi watt, cioè, guarda, della ZG si salvano a malapena giusto i microfoni, quelli da tavola e quelli da palmo, ancora, però la strumentazione mi dispiace, poi non sai mai se è tarato, anche se lo prendi usato, non sai mai se il frequenzimetro è già tarato di suo, perché potrebbe essere anche starato di suo, toccato, guarda, tutta la roba usata, bene o male la toccano, tutti, la scacciavita con tutti, la roba CB, la roba avanturiale, quindi alla fine comprare usata è sempre un rischio, per come la vedo io. Vabbè, comunque ce l'ha trovato parecchio, adesso mi conosco uno, è per ordine. Andata bene, veda. Cioè uno può fare quello che vuole, cioè, hai avuto paracchi di mettere, vedo tutto, ma io vedo, compro, vedo, quando mi scoccio, vedo tutto, mi mano un paracchi da solo 23 canali, non me ne ha contenuta, dopo uno di dice, ci ripenso, me ne compro uno con tanti canali, poi non voglio cambiare, io uno può fare quello che mi piace, giusto, ma poi penso che non chiedo niente a nessuno io. Avanti già. Veglia, vendo Galaxy Saturnetto. Ecco, la palla al balzo. Però già che non lo vedi. No, non lo vedo. Venga, lo so. Vabbè, dai, non c'è problema tu. Niente, sto già innamorato con una persona che poi non conosco pure in verticale. E quindi, niente, ne avevo solo, adesso vediamo. Non ne vuole dare. Uno o due ne ha, non so, non mi ricordo. E sta anche a ripadenza. E poi non entra neanche più, E la roba praticamente rimane a fare la muffa. A quanto pare c'è la vetrina adesso. Scusa, ma se non sei più modulato, cosa devi fare? Vienimelo a me. Se ci pensa è bene, ci ripensa, se non serve a concedere, ma da chi non è se lo tiene in conto? Tanto poi lo tiene in perpa, poi ci guasta. Comunque già è carino farsi la vetrinetta con la roba CB tipo, o amatoriale d'epoca, no? Tanto anche noi mi siamo, se la 27 è obsoleta, noi siamo obsoleti quanto la 27, siamo roba del passato, mi. Cioè, è una cosa tanto vecchia la 27, in Italia è arrivata negli anni primi 70, no, anche prima diciamo che era pirata. Cioè, ma adesso chi è che va a infognarsi con antenne, condomini, a fare tarature di antenne? Chi è lo sfigato che si piglia il baracchino il 2024? Grazie, notte con lui. Io questi problemi non ne ho. Senza contare davvero con le applicazioni tipo Zello, tipo CBTalk, che praticamente tu ovunque sei, dal polo nord al polo sud, puoi parlare come fosse una radio. Infatti non ha senso il baracchino. Giusto una cosa che puoi usare nell'emergenza, in caso di terza guerra mondiale, visto che non mancherà molto, e quindi quando non troverai più cellulari funzionanti o internet, l'unica cosa per comunicare a distanza sarà proprio il baracchino. Che tipo una modula mentre bombardeggiano, io ho preso a scappare. No, ma poi su questi ti puoi cercare anche altri gruppi per avere bisogno di aiuto, di scambiare roba, di scambiare merci, sempre che ne valga la pena di sopravvivere una cosa del genere, già. Cioè, la vedo molto male. Però pensa, se i cellulari non esistono, non ci saranno più reti cellulari, non è internet, puoi comunicare solo o con i segnali di fumo tipo gli indiani, oppure con i baracchini, a patto di trovare sempre fonti di alimentazione tipo una batteria di macchina, quelle cose lì, capito? Vabbè. Comunque già lo trovi, magari qualcuno. Cos'era quel suono? È partito da solo una pubblicità cellulare. Allora. Ciao Antu. Io vi lascio in compagnia di Antonio, da stacco che devo fare un po' di cose in casa, se non si fa tardi poi tribula. Antonino, Antonello si è rientrato. Antonio e tutti gli ascoltoni. Vai Antonio. Avete rotto i coglioni! Avete rotto i coglioni! Allora, fammi salutare un attimino che me la pizza un po', Cappa per salutarvi, salutare un attimino poi. Ciao Lu, buonasera. Hai finito, ma quello con lo di piove telefonate, drogato? Vuoi finire? Guarda, ti faccio uscire l'occhi di fora. Non ti basta il baracchino, vero? Se vuoi che le butto giù la porta, Passate. Buonasera a voi. Oh, ti piove di telefonate? Cappa, dai, continuate che io vado a prendere la pizza, va. A te, ti penso che è una guru. Luca, ciao Antonio, dimmi. Posso chiamarti un attimino alla fassa? Vai. Ok, cuoricci per me un attimo. È un casino. Cappa, ok, dai, cuoriti, ciao. Cappa, sono meglio di non due colpi, no? Oioia, ma che non esiste i biglietti da me. Ma cosa, splatter dal 23? Per forza, siamo vicini, siamo. Cappa, vai che se no mi si brucia la pizza, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti, ciao già, comunque sì, avevo controllato, il sito è tedesco, 48 euro e spiccioli spedito. Ok, dai, sentiamo un'altra volta. Gianni non c'è più. Non ti sparisci. Gianni, che capita? Un altro che conisce, due minuti e tu sparisci. Vabbè, sparite come fossi grande voti. E allora spengo, dai, mi guardo la televisione, faccio prima. Tutti chiuso, io mi avevo salutato da prima e sto facendo roba qua. E Gianni non ha risposto, Bombolo c'ha credo da fare, Luca entra ed esce, scompare. Ma Luca l'ho chiamato io alla bassa, ma devo fare una bassa, forse mi ha detto sì, l'ho chiamato, ma due minuti mi, l'ho chiesto qualcosa che non potevo dire a Baracchino, giustamente. Ma che al sicuro ho passato il volume, pronto con Luca, rientro a Baracchino, non c'è volume, non per nessuno, sono fatto di tutti spariti. E tutti da fare, Ciardo, poi dovrà portare il cane pure. E io, vabbè, io avevo annunciato già il QRT più volte, quindi sto facendo roba qua, baracchino vabbè rimane acceso, ma e quindi tu ridà, buona serata, buon tutto, ci sentiamo fra altri mille anni, dai, che io sono, io non ho voglia di stare tutti i giorni qua presso alla radio. Ok, dai, tra in commenti e tutto, qualcosa da fare già si trova. Di nuovo, buona serata, buon tutto, dai. Capo, è tanto da domani, c'ho da divertirmi con le donne, quindi non me la potete con il baracchino, capito? Altro che baracchino, mi diverto di più. Va bene, dai, ok, ci sentiamo, stare bene, Marconi, salutami da tuo gricchialoma. E metto la sottone, ciao a tutti. Via, ciao, ciao a tutti. Sì, Marco, dai, sono un po' indaffarato. Ciao Torino, ciao Marco. Qua è acceso, adesso posso salutare Gio Maria al 23, dai, ciao. Ciao, ciao, Luca. Ciao, Luca, ciao.